e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Buongiorno. Ciao Deborah. Eccoci, pronti. E qua siamo quasi alla vigilia della vigilia della vigilia. Esatto, è tutta una vigilia. Ecco, vi state preparando? Bocca mia, fatti capanna. Devi però quella sentire... del presepe. No, perché tu devi sentire i consigli del dottor Speciani. Cosa che dici? Tornerà a trovarci. Figurati, anche oggi. Guarda, c'ho tanti di quelle noci, mandorle, zenzero a casa che la metà basta. Brava, ma sai perché? Perché arriva quella sensazione, dice: beh, tanto tra poco c'è Natale, mangerò, poi c'è Santo Stefano, poi Brindisi, e allora vai a briglie sciolte. Ecco. Per cui invece di mettere su quel chiletto e mezzo della festa, se inizi molto prima a metterli su, e certo, arrivi poi con il nuovo anno che sei tondo. Allora con il dottor Speciani facciamo questi appuntamenti in cui giochiamo un po' d'astuzia. Quindi. Brava, brava. E poi abbiamo anche la sigla, sì, con i campanellini. Esatto, è proprio tutto un clima natalizio qua. Però guarda, non è un clima tanto natalizio per so. La borsa, perché qua il nervosismo è sempre alle stelle. Andiamo, non quelle di Natale. Allora. Dove vuoi andare? Se vuoi, raccontaci, perché prima racconto vorrei che tu ci anticipassi, perché anche... Allora, è tutto un tema, siamo, lo sai. Siamo a scuola anche oggi. Anche oggi, perché ancora non abbiamo dato le vacanze. C'è l'interrogazione di fine anno. Domandone. Esatto, verifica. Allora, il tema è che torna l'ultima puntata oggi di Investire Informati, faremo tante cose, oggi abbiamo con noi gli amici di Global Thinking Foundation e faremo un punto anche sul tema dell'educazione finanziaria per raccontare ai nostri ascoltatori cosa fa la FEDUF, la Federazione dell'Educazione Finanziaria al Risparmio. Ci sono tante iniziative nella scuola e quindi quale migliore occasione per parlare. Anche noi, prendendo spunto da una sentenza che potrebbe rivoluzionare anche la giurisprudenza relativa all'obiezione di coscienza, facciamo educazione e parliamo del la pillola del giorno dopo. Bisogna capire esattamente di che cosa stiamo parlando. Questa è anche fare informazione per non prendere anche delle posizioni non corrette. Noi racconto la borsa velocemente e poi ti do la linea, perché mi pare un tema molto interessante che so già è molto anche dibattuto fra i nostri ascoltatori. Più 0,58% per il FTSE MIB a Piazza Affari. Mercati oggi che erano partiti in maniera un po' nervosa, poi su Milano invece si sono riprese a concentrare gli acquisti. Pop Milano e Banco Popolare in rialzo di quasi 4 punti, Unipol più 2,32, Popolare dell'Emilia Romagna più 2,30, modestissimo rimbalzo per Monte dei Paschi. Sono giornate decisive perché l'aumento di capitale non si sta concludendo secondo le aspettative. A questo punto la strada è sbarrata all'intervento dello Stato per salvare la banca. Quindi Natale 2016 sarà contrassegnato naturalmente dalla vicenda Monte dei Paschi, ma anche dalla vicenda Mediaset, perché c'è questa battaglia finanziaria e legale per la scalata ostile sul gruppo del Biscione, che anche oggi torna ad essere in modesto rialzo, mentre in calo abbiamo pochissimi titoli: Buzzi Unicem meno 2, Terna meno 0,4, Recordati meno 0,08%, l'euro sempre più in giù sul dollaro 1,04,49, ma direi che questo basta come antipasto, perché poi temi di mercato li affronteremo ampiamente in Investire Informati a partire dalle 11:20. E come anticipato, per la parte di cuore ci occupiamo di una sentenza, ne hanno parlato anche Oscar e Alino, e noi torniamo ad occuparcene perché vogliamo dare il taglio solito di cuore denari, quindi cercare di capire di più e soprattutto dare delle indicazioni di servizio. Il Tribunale di Gorizia, vi riassumo rapidamente la notizia, ha assolto una farmacista di Monfalcone che 3 anni fa si rifiutò di consegnare la pillola del giorno dopo a una ragazza che era arrivata in farmacia con regolare prescrizione medica, dichiarandosi obiettrice di coscienza. L'obiezione di coscienza è prevista dalla legge 194, ma solo per quanto riguarda il personale medico e ospedaliero, che potrebbe trovarsi a occuparsi di interruzioni volontarie di gravidanza, e non riconosciuto invece la categoria dei farmacisti. Per questo si legge, avete letto, avete sentito, che questa sentenza potrebbe rivoluzionare la giurisprudenza relativa all'obiezione di coscienza. Ma noi a Cuore Denari non entriamo nel merito, ma vogliamo cercare di capire di che pillola stiamo parlando, e lo facciamo con la dottoressa Francesca Testa del Centro Medico Sant'Agostino di Milano. Buongiorno dottoressa, benvenuta a Cuore Denari. Buongiorno. Sono qua. Eccola. Molto lieta di partecipare a questa bella trasmissione. Grazie, grazie, grazie dottoressa. Un argomento così importante. È delicato, ha ecco, ragione. Su cui c'è molta confusione. Intanto ci spiega in parole semplici che cos'è e come funziona la pillola del giorno dopo. Dunque, si parla di pillola del giorno dopo perché abbiamo a disposizione due diversi tipi di pillola, entrambi vanno assunti nel più breve tempo possibile. Il massimo di efficacia l'abbiamo entro 24 ore dall'assunzione. L'effetto di l'azione di queste pillole consiste fondamentalmente nell'inibire o nel ritardare l'ovulazione. Quindi la funzione che se hanno è quella di impedire la fecondazione dell'uovo, che la fecondazione sostanzialmente, perché l'uovo non viene predisposto. Quindi, a causa dell'intervento di questo farmaco, sì. Dottoressa Testa, lei parla al plurale perché sono due, la pillola del giorno dopo e la pillola invece dei cinque giorni dopo. Esatto. Ci sono delle differenze legate solamente al tempo? Ci sono delle differenze di tempo, nel senso che delle due, quella base di solo progestinico e che costa meno, siamo attorno ai 12-13 euro, ha un'efficacia certa solo se viene assunta entro 72 ore dall'assunzione, ma in realtà prima la si prende meglio è. L'altra invece è un antiprogestinico, costa un po' di più, siamo sui 26 euro, ma ha un'efficacia superiore all'altra e la sua efficacia copre 120 ore, ovvero sia 5 giorni. Il meccanismo d'azione è lo stesso, entrambe interferiscono con l'ovulazione, cioè impediscono all'ovocita di raggiungere la maturazione e di prepararsi all'incontro con lo spermatozoo. Quindi possiamo sottolinearlo e metterlo bene per iscritto, ci hanno pensato anche le autorità e fior fiori di ricerche, non è un rimedio, non sono dei rimedi abortivi, ma piuttosto anti... No. Ovulatori, ovvero bloccano sul nascere l'ovulazione impedendo ogni possibile fecondazione, naturalmente se presa in tempo. Esattamente. È esattamente corretto? Così. Non hanno nessuna capacità di interferire con l'annidamento di un uovo fecondato, quindi non hanno nessuna capacità di interrompere una gravidanza appena iniziata. Hanno fondamentalmente la capacità o la possibilità di impedire l'inizio di una gravidanza col meccanismo che abbiamo descritto. Dottoressa Testa, sono sicure al 100% se prese nei tempi per tempo? Certo, sono tanto più sicure quanto prima si assumono, sì, rispetto al rapporto a rischio. Sono sicure solo su quel rapporto a rischio, quindi non sul rapporto a rischio precedente o successivo all'assunzione. L'efficacia della pillola dei 120 giorni, che è un antiprogestinico, supera quella del progestinico, cioè quella che va presa entro i primi tre giorni dal rapporto a rischio. Naturalmente l'efficacia non è del 100%, ma la seconda pillola, cioè quella che si può assumere entro 5 giorni, ha una sicurezza che se presa entro poche ore, entro diciamo il più presto possibile dal rapporto a rischio, si aggira, diciamo che si avvicina molto a quella della pillola assunta regolarmente, quindi siamo superiore al 90%. Non sono però gli unici contraccettivi d'emergenza, dottoressa Testa? No, esiste. Perché noi parliamo di pillole, ma oltre a queste pillole ci sono altri, c'è un altro contraccettivo d'emergenza. L'altro contraccettivo d'emergenza è un contraccettivo che si usa come la pillola, diciamo, per una contraccezione normale, ma si può usare in emergenza, cioè quando vi siano delle controindicazioni all'assunzione della pillola per bocca, oppure quando si voglia iniziare subito con una contraccezione che poi continuerà anche dopo. In questo caso si può inserire una spirale. Allora, dottoressa Testa, voglio leggerle un messaggio che arriva da un ascoltatore, Andrea, che ci dice: nel caso di assunzione ritardata rispetto ai tempi prescritti, quanto possono danneggiare il feto eventualmente generato? Niente, rischio zero. Rischio zero. Assolutamente. Allora, stiamo però parlando di pillole che rispetto a una pillola tradizionale hanno una dose di ormoni superiore, ecco. Certamente. Queste dosi elevate di ormoni possono produrre effetti collaterali? Gli effetti collaterali, dunque, innanzitutto sia le controindicazioni all'assunzione che gli effetti le controindicazioni all'assunzione sono pochissime, sono quasi nulle, mentre gli effetti collaterali sono brevi e transitori. E fondamentalmente un po' di tensione mammaria, un lieve senso di nausea, a volte un lieve gonfiore addominale e può anche esserci una perdita di sangue modesta che segue l'assunzione. Il ciclo generalmente arriva più o meno all'epoca in cui dovrebbe arrivare, al massimo può ritardare di pochi giorni. È chiaro che se il ritardo è eccessivo, si consiglia sempre di fare un test di gravidanza. Certo, ci possono essere delle interazioni con altri farmaci, penso ad esempio donne ci che sono assumono delle farmaci, terapie. Certo, ci sono alcuni farmaci, alcuni antibiotici, pazienti che sono in terapia antiepilettica. Questi farmaci possono interferire con sia con il progestinico sia con l'antiprogestinico, cioè possono abbassarne l'efficacia. Dottoressa Testa, andiamo alla ricetta. Per la pillola dei 5 giorni, l'Agenzia Italiana del Farmaco, recependo un'indicazione della corrispondente autorità europea che è l'EMA, ha emesso un provvedimento con il quale ha sancito che la pillola dei 5 giorni dopo va somministrata con ricetta solo alle minorenni. Per le altre donne può essere venduta senza ricetta e anche senza test di gravidanza. Mi interessa andare sulla ricetta alle minorenni. A chi si possono rivolgere? E poi, essendo minorenni, deve essere presente uno dei due genitori oppure questo oppure non, il genitore non è previsto, insomma può anche non essere coinvolto? Il genitore non è previsto, può non essere coinvolto assolutamente. La ricetta va fatta per la minorenne, per entrambi i tipi di pillole evidentemente, può essere fatta dal medico di base, può essere fatta dal medico di un consultorio, può essere fatta da un pronto soccorso, dal medico di un pronto soccorso. Allora, dottoressa Testa, mi sembra che abbiamo così risposto a tutti i dubbi, chiarito tutti i passaggi. Resta una domanda, l'affronteremo tra poco con un altro esperto, con un legale. Se io oggi mi reco in farmacia e il farmacista mi nega la vendita di questo di una pillola, di un contraccettivo d'emergenza, io che cosa devo fare? Cambio farmacia, cerco un'altra farmacia o posso sentiamo il parere della ginecologa, adesso, poi subito dopo le informazioni sentiremo anche il parere del legale, ma il farmacista non può esimersi dal consegnare o dal vendere la pillola del giorno dopo nella la contraccezione d'emergenza alla donna che gliela richiede. Non può, perché c'è una normativa in proposito e l'obiezione di coscienza non lo riguarda. Lei come donna cosa farebbe? Si tolga il camice, andrebbe dall'autorità competente o cambierebbe farmacia? Io proverei a discutere un attimo col farmacista, ricordandogli le norme previste dalla legge. Nel caso in cui il farmacista mantenesse la sua posizione, mi rivolgerei ovviamente a un'altra farmacia perché i tempi sono stretti, ma sicuramente dopo farei una segnalazione del caso, perché il farmacista non si è comportato in modo corretto. Dottoressa Testa, la ringraziamo, le auguriamo buone feste. Noi andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Mi scuso per il ritardo e ritorniamo subito dopo con il parere del nostro legale. Cuore e denari. E siamo di nuovo qui, abbiamo raccolto informazioni utili, speriamo, e necessarie riguardo ai contraccettivi di emergenza, che non sono, come ci ha spiegato la dottoressa Testa, pillole abortive. Ma proseguiamo. Mi reco in farmacia, trovo un farmacista che si rifiuta di vendermi la pillola appellandosi a un principio di obiezione di coscienza. Cosa devo fare? Cambio farmacia, mi rivolgo alle autorità competenti, cerco di, come suggeriva la dottoressa Testa, di convincerlo. Allora, sentiamo il parere dell'avvocato Gabriele Casartelli, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi, penalista e docente universitario di Milano. Buongiorno avvocato. Buongiorno a voi. Avvocato, cosa deve fare la donna che si trova nella condizione di vedersi rifiutato il contraccettivo di emergenza, anche alla luce di questa sentenza? Certo, diciamo che si trova in una situazione abbastanza complessa, purtroppo, perché in Italia manca effettivamente, questo va detto subito, preliminarmente, una legge che regolamenti proprio questo aspetto particolare dell'obiezione di coscienza con riferimento ai farmacisti. Faccio una premessa: sulla base di quello che ho potuto leggere, come tutti, sui giornali, mi pare di aver capito per la verità che la sentenza del Tribunale di Gorizia che ha assolto la farmacista in realtà non ha escluso la sussistenza del reato, ma sembra invocare una norma del codice penale, che è l'articolo 131 bis, che esclude esclusivamente la punibilità quando l'offesa al bene, che quindi sembra comunque sussistere, quindi con un'affermazione di sussistenza del reato, in questo caso che ricordiamo era il rifiuto di atti di ufficio, dicevo, si esclude la punibilità quando questa condotta pur sussistente però viene ritenuta di particolare tenuità e si risolve in una condotta che l'imputato non tiene abitualmente. Dico questo perché è evidente che il giudice ha cercato una scappatoia a una situazione che attualmente, a mio modo di vedere, difficilmente può escludere comunque la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo, perché la realtà dei fatti è questa: esiste comunque un regolamento per il servizio farmaceutico che va risalente nel tempo, credo che sia del 1938 o giù di lì, e c'è proprio un articolo, l'articolo 38 di questo regolamento, che dice che i farmacisti non possono rifiutarsi di vendere le specialità medicinali di cui sono provvisti. Esattamente questo. Il problema poi ovviamente si pone, dicevo in premessa, in maniera molto articolata quando, come nel caso di specie, si trova di fronte comunque alla possibile applicazione di principi molto alti. È chiaro che vogliamo alti, perché da un lato c'è l'invocare da parte del farmacista, in questo caso come in altri casi, un'obiezione di coscienza e quindi la possibilità di esplicare liberamente l'esercizio del diritto di opinione, di pensiero, di professione religiosa. Dall'altra parte però non dimentichiamoci che c'è anche la tutela del diritto alla salute del cittadino, che è tutelato dall'articolo 32 della Costituzione. Anche perché ai fini della legge penale il farmacista è qualificato come incaricato di pubblico servizio. Assolutamente sì. Senta, avvocato, e allora questa è un po' così la teoria, e allora che cosa faccio? Mi dicono no, io non gliela do. Io cosa faccio? Mi rivolgo alle autorità competenti? Cerco di mediare? Sì, come sempre. Allora, evidentemente qui rivolgersi alle autorità competenti per ottenere, diciamo, coattivamente la vendita del farmaco, in teoria è qualcosa che si potrebbe fare, però in pratica risulta molto difficile, anche perché comunque stiamo parlando di contraccettivi che dovrebbero essere assunti in termini abbastanza brevi per avere un'efficacia, quindi sostanzialmente avrebbe meno anche la loro funzionalità sotto questo profilo. È chiaro che trovandosi di fronte a un farmacista che apertamente o meno, perché un farmacista potrebbe anche risolvere il problema conoscendo tutta la questione che ci sta sotto, e quindi temendo di dover rispondere penalmente se rifiuta la vendita, semplicemente dicendo: guardi, non ho il farmaco, si rivolga a un'altra farmacia. Se invece c'è un rifiuto netto, è chiaro che si potrebbe insistere, si potrebbe tentare una mediazione, ma certamente se il farmacista permane nella sua negativa, al cittadino non è data nessun'altra possibilità se non rivolgersi ad un'altra farmacia e sperare di ottenere la vendita di questo prodotto. Il problema, se mi consente, invece è molto più serio, più ampio, perché qui manca, come dicevo all'inizio, una legge. È chiaro che questa ci deve essere, perché che l'obiezione di coscienza sia un diritto costituzionalmente stabilito lo ha già ribadito molte volte la Corte Costituzionale, però con diverse sentenze. Però ricordo anche che la Corte Costituzionale ha comunque specificato che questo diritto di obiezione di coscienza, che ha rango costituzionale, per essere operativo ha assolutamente necessità di una cosiddetta interposizione legislativa, vale a dire ci deve essere una legge che prevede le singole ipotesi, i limiti e i modi di esercizio di questo diritto, anche perché qui si va proprio, diciamo così, al cuore del diritto penale. L'esercizio di un diritto è, secondo appunto la logica, la struttura del codice penale, può scriminare una condotta che costituisce reato, come in questo caso è la mancata vendita di un prodotto che invece per legge si deve vendere, ma solo se l'esercizio del diritto sostanzialmente viene esercitato secondo quelli che sono i limiti interni, diciamo, previsti dall'ordinamento, quindi da quello che dice la legge, e secondo i limiti esterni, vale a dire se non va a incidere negativamente, pregiudicando diritti di pari rango che appartengono ad altri cittadini. Quindi è chiaro che questa è una situazione che va assolutamente affrontata in tempi brevi. Mi ricordo che nel 2011 il Comitato Nazionale per la Bioetica espresse un'articolata nota in merito alla possibile obiezione di coscienza del farmacista alla vendita dei cosiddetti contraccettivi d'emergenza, e in questa nota ci furono delle posizioni antitetiche da parte di quei membri che ritenevano che comunque l'obiezione di coscienza potesse essere esercitata anche dal farmacista, perché comunque certo, operatore sanitario. Insomma, il problema, come ha anticipato l'avvocato, è abbastanza complesso e soprattutto manca la legislazione. Devo dire che però il tema ha acceso l'interesse dei nostri ascoltatori, che sono partigiani, devo dire, che un ascoltatore dice: ma allora come si fa a parlare di obiezione se non c'è fecondazione? Sono come le pillole come le pillole contraccettive. Ringraziamo l'avvocato Casartelli. 30 secondi, 30 di battuta alla dottoressa Testa, che la regia mi ha segnalato ha voluto essere presente e sentire anche il contributo e il parere del nostro legale. Dottoressa Testa? Sì, sono qua. Angelo ci ha scritto: allora il farmacista non dovrebbe vendere neanche i profilattici. Esatto, non dovrebbe vendere neanche profilattici, neanche la pillola normale, neanche le spirali, ma siamo arrivati. Dunque, nei consultori familiari noi abbiamo una nuova generazione di ginecologi, infatti, che non applica più la spirale, per esempio. Quindi tutto il panorama della contraccezione e del fornire alla donna un mezzo sicuro per prevenire una gravidanza che non vuole, in Italia è ancora da chiarire, definire meglio. Allora, ecco, torneremo sul tema. Dottoressa Testa, grazie. Avvocato Casartelli, grazie anche a lei. Buone feste. Buone feste, perché ci avete accompagnato in un tema che non è facile, è abbastanza complicato e solleva, vedi, tanti aspetti. Noi andiamo a sentire il nostro giornale radio. Ritorniamo con una ricerca pubblicata su una rivista molto prestigiosa che dice che essere seguiti in ospedale da un medico donna potrebbe comportare un migliore esito delle cure e le trasmissioni condotte dalle giornaliste donne. Quelle. E poi state ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Cuore e denari. Siamo tornati insieme in questa seconda parte di trasmissione. Torniamo a parlare di donne. Ieri, Deborah, abbiamo parlato di uomini, oggi di donne. Ah già, certo, par condicio. Parliamo in particolare di medici donne. Secondo una ricerca fatta dall'Università di Harvard, essere seguiti in ospedale da un medico donna potrebbe comportare un migliore esito delle cure. 800 24 00 24, votate. Siete d'accordo? No? Avete dei dubbi? Preferite invece un medico uomo? Non fate differenze, ma intanto commentiamo questa ricerca insieme a Maria Giovanna Luini, medico comunicatore scientifico, scrittrice. Ciao Giovanna, bentornata. Bentornata. Ciao Nicoletta, ciao Deborah, ciao a tutti. Allora, no. Ci hanno dovuto studiare. Dice anche che i medici donna sono pagati meno rispetto ai medici uomo, ma sorvoliamo. Comunque, tanto per dare una notizia di denari. Appunto, esatto, però Deborah. Deborah, Giovanna, già in passato ricerche avevano dimostrato differenze nell'operato di camici bianchi, di sesso maschile e femminile, perché le donne sembrano più attente a fare prevenzione, anche più scrupolose nel seguire le linee guida cliniche. Insomma, complessivamente sono in grado di offrire cure migliori rispetto ai medici di sesso maschile. Vorremmo essere di parte. Ma no, in realtà i numeri presentati da questa ricerca sono numeri molto grandi e c'è in effetti una minore mortalità, pensate, e una minore ricovero nuovo, cioè meno pazienti ritornano in altri ricoveri successivamente se curati da medici donne. Poi è chiaro che bisogna capire che cosa sia, quale sia il fattore che spiega queste statistiche, però tra empatia, maggiore precisione anche, a volte maggiore ostinazione delle donne, credo che i dati siano effettivamente non solo credibili, e su questo non abbiamo dubbi, ma anche riscontrabili in quasi tutti gli ospedali. Non sto dicendo che le donne siano migliori degli uomini a priori, dico solo però che nel prestare cura alle persone che soffrono, le donne hanno veramente alcuni elementi di favore, diciamo, alcuni elementi in più. E questa ricerca lo dimostra, perché veramente queste statistiche sono incontrovertibili su più di 15.000 medici, quindi sono ricerche veramente ampie. E questo non per diventare, Stefano ci scrive, quando le donne parlano delle donne fate venire voglia di diventare maschilisti. Non siamo né femministi né maschilisti, è il commento di una ricerca. Caro Stefano, intanto volevo chiedere alla dottoressa, alla nostra dottoressa Luini, Giovanna, uomo o donna che sia, può capitare di incontrare il medico in ospedale con cui non hai feeling, non ti fidi, non ti piace, ti senti trattato male? Che cosa si può fare? Dobbiamo anche qua mandare giù, oppure ci possiamo rivolgere a qualcuno? È importantissimo che chi è paziente, lo siamo tutti prima o poi, chi è paziente sappia cosa dice la legge. Ci sono tre fasi possibili. Prima fase, dirlo al medico: lei non mi sta dando un servizio che mi soddisfa, anche dal punto di vista del colloquio. Sappiate che noi medici siamo obbligati a dare un servizio buono anche dal punto di vista dell'informazione e dell'empatia. Seconda fase, se non si vuole parlare col medico o se non si risolve parlando col medico, si parla col primario. Terza fase, fondamentale, ogni ospedale ha un servizio di relazioni con il pubblico oppure la direzione sanitaria. Ora, io non sto dicendo che ogni volta che qualcosa non va con un medico che c'è antipatico dobbiamo andare in direzione sanitaria, però si tratta della nostra salute. La legge dice che siamo noi titolari della decisione, noi pazienti, sto parlando adesso da potenziale paziente. Quando non ci sentiamo a nostro agio con i medici, dobbiamo dirlo, perché questo può influenzare la nostra decisione sulle cure. Quindi, prima parlare col medico interessato, e il medico deve ascoltare, non ci fa il favore di ascoltarci, è obbligato a farlo. Secondo, parlare col primario se col medico non ha funzionato. Terzo, non in ordine di importanza, ufficio relazioni con il pubblico o direzione sanitaria, che sono in tutte le strutture sanitarie d'Italia. Chiaro, passaggi molto chiari, e la relazione può essere quindi recuperata. Intanto Giovanna, allora, dopo tutto questo gineceo, finalmente un uomo, prima di sederci sui banchi della scuola di risparmio, ci sediamo a tavola con dove anche Attilio. C'è un uomo, quindi, perché sennò sì, si vabbè, sente un no, pochino infatti l'abbiamo invitato apposta, il dottor Attilio Speciani, specialista in allergologia e immunologia clinica a Milano, che sta cercando con i suoi consigli di non farci ingrassare prima di Natale. Ce la farà il nostro uomo, dottor Speciani, certo, buongiorno. Buongiorno intanto. Buongiorno a tutti voi. Allora, io tra l'altro il consiglio di oggi, questa pillolina che buttiamo nella giornata per evitare di diventare tutti cicciotti e diabetici con le feste natalizie, è una comunicazione che sembra paradossale, però assaporare i piatti, gustarli, cioè farteli piacere. Quando ti arriva un piatto di tortellini, di raviolini, un cappone, un piatto vegetariano, quello che sia, metterlo in bocca e gustarlo. Sai, mangiarlo di gusto. Di gusto vuol dire cercare di dire ci hanno messo dentro una cosa o l'altra. E perché? La motivazione di questo è che masticando si attiva un'azione dimagrante e un'azione di sazietà, primo. Il secondo è che masticando e quindi percependo dentro nel piatto quello che c'è, quali sono gli ingredienti, si ha un'azione che è contro lo sviluppo di infiammazione da cibo. Quindi riducendo questa c'è un'azione che migliora la sensibilità insulinica, proprio il modo in cui noi introduciamo e gestiamo e assorbiamo gli zuccheri. Quindi ma io non lo so, mi sembra un consiglio che più che un consiglio è un invito. Godete e masticate, dottor Speciani, godete e masticate, chiudiamola godete qua. Masticate, e dai, noi ci sentiamo domani, grazie Giovanna. A presto. Giovanna. Grazie, sono qui. Stavo pensando che se uno cucina come me c'è poco da gustare, però ha ragione. Sì. Però ci sono le ricette che sono sempre sul nostro sito, Giovanna. Sì, le seguo. Leggere sai leggere, quindi. Un abbraccio. Ciao a domani. A tutti, grazie. Vedevo che i tuoi, voglio essere puntualissima, anche perché vedevo che i tuoi ospiti mi guardavano con tanto d'occhi, allora ho pensato subito di coinvolgerli. Molto interessati cadevano, al tema prendevano dalle labbra del dottor Speciani e masticheranno anche loro. Esatto. Benvenuti. E quindi si godranno pienamente i pasti natalizi. Allora, tra l'altro, guarda, ti dirò che rispetto alla scaletta che abbiamo preparato, che naturalmente è sempre ricca di temi finanziari, prenderemo spunto anche al tema che hai appena affrontato, Nicoletta, con la nostra amica, con Giovanna Luini, perché parleremo un pochino anche di differenza di genere nell'educazione finanziaria. Le donne, come percepiscono il tema del risparmio, dell'investimento, siccome il soggetto che ospitiamo oggi, che è Global Thinking Foundation, fa davvero moltissimo lavoro anche nell'approfondimento di queste tematiche, ce le faremo appunto raccontare. Detto questo, però, parleremo anche di mercati finanziari, perché si sta avviando a chiusura un anno che è stato a dir poco vivace, direi di effervescente sui mercati finanziari internazionali. Lo abbiamo ripetuto decine di volte. Il 2016 intanto è iniziato con la crisi della borsa cinese. Se il 2 gennaio se il 2 gennaio del 2017 mi si ripresenta come quello dell'anno scorso, io devo star chiusa qua dentro dalle 8 del mattino fino alle 8 di sera. Una crisi peraltro della borsa cinese che oggi ci sembra stranamente sopita, cercheremo di capire se non bisogna svegliare il can che dorme. Poi siamo passati alla questione petrolifera, al tema delle obbligazioni a tassi negativi, al lavoro senza sosta delle banche centrali, poi abbiamo avuto Brexit a fine giugno, l'elezione di Donald Trump, la crisi bancaria italiana, non ci sono proprio mancati temi di cui discutere anche quest'anno. Oggi allora, per l'ultima lezione dai nostri banchi della Scuola di Risparmio, facciamo un punto della situazione gettando però inevitabilmente anche uno sguardo al 2017. Chissà che sorprese ci aspettano dietro l'angolo. Abbiamo anche il modo per non farci cogliere del tutto impreparati, e cioè documentarci un po', tenerci sempre informati. Ecco perché oggi vogliamo raccontarvi anche dell'attività che svolge la FEDUF, la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al risparmio, e insomma questo è tutto quanto ci offre oggi la nostra Scuola di Risparmio. Investire informati. Il tempo di bilanci per tutti, se volete condividere con noi le scelte che avete fatto quest'anno anche in termini di investimento, non solo personali. Avete inseguito i mercati o avete inseguito i vostri obiettivi finanziari? 800 24 00 24 è il numero verde sempre a vostra disposizione. Se non potete chiamare, potete scrivere al 349 238 6666. Riceviamo gli sms ma anche i messaggi su WhatsApp. Tra l'altro, siete pronti a fare quel famoso punto della situazione con il vostro consulente finanziario, che in puntate precedenti ho detto invitato a mangiarvi una fetta di panettone? Magari questo è momento giusto per fare il check-up di portafoglio. Chissà se sono d'accordo. Claudia Segre, presidente della Global Thinking Foundation, benvenuta. Buongiorno. Ben ritrovata naturalmente. Con noi in studio oggi anche Luciano Turba, segretario generale della Global Thinking Foundation, ma anche responsabile del desk del mercato, del desk obbligazionario appunto per UbiBanca. Ben trovato anche lei. Non le piace, come ho detto, il termine? Ho già vista che storce la bocca. Io provo a tradurre in termini italiani per i nostri ascoltatori le vostre cariche sempre un po' ridondanti. Me lo dica lei come... Semplicemente... le banche poi fanno cambiare anche di responsabilità. In questo momento mi occupo di cambi e derivati di cambio. Ottimo, va bene. Allora, intanto abbiamo anche un ospite telefonico, che è invece Giovanna Boggio Robutti, segretario generale di FEDUF, la fondazione appunto che ho citato prima, per l'educazione finanziaria e risparmio. Boggio Robutti, benvenuta anche a lei al suo primo intervento a Investire Informati. Benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, qua veramente c'è l'imbarazzo della scelta sui temi dai quali cominciare, però abbiamo dato l'assist, Claudia Segre, sul tema della differenza di genere uomo-donna. Voi come Global Thinking Foundation, solo ad aprire il sito, vedo che dedicate tantissimi approfondimenti all'argomento. Ci sono studi nuovi che ci raccontano delle tendenze interessanti: la donna e il risparmio, la donna e i mercati finanziari, la donna e le attitudini all'investimento. Che cosa possiamo raccontare di interessante? Ma allora, intanto che Global Thinking Foundation, insieme all'Università George Washington,